Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va, perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Ero convinto che non avrei avuto nulla da dire a questo signore e nemmeno che lui avesse qualcosa di interessante da dirmi. Anzi, mi sembrava del tutto disattento a quello che dicevo, cercavo di stimolarlo, parlare del più e del meno, vedere se poteva essere la vittima prescelta per una puntata dei miei viaggi sul treno. Dicevo, ma da questo non ci tiro fuori nulla. Poi non so perché mi sono incaponito. È stato un incontro fondamentale che probabilmente cambierà tutta la mia vita e magari anche qualcosa dopo la vita. Ma lei cosa fa? Ma io sto in pensione da un anno, quindi per il momento sto a riposo, diciamo così. Non ho ancora deciso come impiegare il tempo. Cosa fare da vecchio? Che ne so. Vabbè, da vecchio, quanti anni ha? Ne ho 68 quasi. Vabbè, c'ha quasi la mia età, vecchio. Sì, un poco di più, insomma. Siamo ancora, non è che ma mi senta vecchio. Cosa fare? Mi ero concesso un anno di stand-by per decidere cosa fare da vecchio. Ma quindi, quando si comincia con lo stand-by, poi dopo ne se ne esce più, eh? No. Sì, lo so, ma non è facile. Ma l'anno è finito? No, l'anno finisce a ottobre. Vabbè, c'è l'estate si va in vacanza, e ottobre quindi deve prendere una decisione. Sì, ma non solo una, insomma, più di una, su vari aspetti. Comunque, voglio dire. No, ma mi anticipi, scusi, adesso la uso come consulente, è un problema che dovrò affrontare anch'io. Come funziona? Uno aspetta, adesso mi riposo, poi dopo che fa? Nicoletti, lei è poco più giovane di me. Comunque, cosa fa? Ognuno lo decide in base al vissuto, in base all'idea che ha della vita. Tanto, davanti a noi abbiamo un solo traguardo, è chiaro. Ma quello è quando si nasce, da quando si nasce che ci abbiamo. Da quando si nasce, bravo. Onestamente, come riempire il tempo, in che senso dargli? Questa è una domanda che ma non ho ancora trovato un'applicazione concreta, che l'applicazione concreta, in parole povere, se non hai un terreno, un orticello, un negozio, un'attività già avviata, eccetera, che fai? Qualche forma di volontariato, non lo so che cosa. No, diciamo, il mio scopo sarebbe poter continuare a lavorare sempre, perché se lavoro non penso e sto bene. Però no, Nicoletti, il suo è un bel lavoro, perché è relazione con gli altri. Lo so, c'ha ragione, infatti. È scoperta, quindi è confronto continuo. Io in tutta franchezza ho preso 25 anni fa che serviva da pubblicista, poi ho visto che serviva solo a scrivere gratis per piccoli giornalini e non mi sono stufato. Sì, certo, così non è un lavoro. Ma lei cosa faceva di mestiere prima di andare in pensione? Allora, di mestiere io ho fatto vari mestieri, perché in base al racconto che forse lei ha letto, da ragazzo ho sognato, come tutti i figli degli anni 50, che hanno avuto la fortuna di vivere in un momento di grandi speranze. In cui i sogni sembravano possibili, vero? Sembravano possibili, sì. Poi abbiamo sbattuto il muso con la realtà degli anni 80, 90, eccetera, eccetera. Quindi poi ognuno ha avuto il suo impatto con la vita. Abbiamo avuto un 20 anni per illudersi. Forse anche 30. 30 anni, mettiamo, 30 anni, sì. Mettiamola così, siamo generosi. Mettiamo poi ognuno sbattu, io ho sbattuto il muso in vari modi, alla fine mi sono adeguato perché devi arrivare a fine mese. Ma qual era la sua aspirazione? Qual era all'inizio proprio del grande all'inizio sogno? All'inizio io volevo fare il medico, infatti ho fatto alcuni anni di medicina, poi ho mollato perché mi ero stancato e mi sono messo a fare lavori normali, prima l'operaio, poi l'impiegato alle poste, poi era nato il Ministero dell'Ambiente, entrai al Ministero dell'Ambiente, pensavo chissà che cavolo di grandi cose facesse e anche lì ho avuto le mie delusioni. Insomma. Al medico poi, perché a un certo punto non le andava di continuare gli studi per quello? No, mi sono stancato. Vabbè, è la sua scelta una scelta, ho sbattuto il muso con un esame che non riuscivo a realizzare. Che era, se lo ricorda? Sì, fisiologia. Era difficile? Era difficile... sì, era difficile in relazione alla stanchezza che avevo in quel momento. Insomma. Beh, capita, però uno comincia un percorso universitario, poi non ce la fa più e non ci sono santi. Succede, bravo. Infatti poi sono stato 2 anni a spasso, dopodiché un giorno andai in segreteria, dissi guardi voglio chiudere, questo è il libretto, e andai a fare il militare e mi trovai un lavoro da operaio, pur di avere uno stipendio. Ecco. Beh, è un salto grosso però, da un aspirante medico a lasciare tutto. Sì. Quanti esami aveva dato? 15. Dico, non è che sì, proprio avesse fatto così tanto per fare. Lo so, ma infatti ho recuperato a 50 anni prendendomi una laurea breve, si chiama laurea breve, sì, la triennale, perché erano state istituite le famose professioni sanitarie, mi presi e diventai tecnico della prevenzione con una laurea che poi mi ha consentito di fare il lavoro che ho fatto negli ultimi 15 anni. Beh, quindi non è che aveva buttato via tempo, alla fine... No, ho recuperato, certo, quel po' di nozioni che anche ora avevo in memoria, le ho utilizzate, diciamo, in maniera più o meno soddisfacente, ecco, diciamo così, con tutte le... Vabbè, ha recuperato, uno fa una cosa, non va bene. Recupera, fino a lì andava bene. Sì. E il lavoro che ha fatto era un lavoro fatto puramente per sopravvivere? Com'è? La prima parte sì, e la seconda pure alla fine, perché quando volevo fare le cose bene il sistema mi ha detto stai calmo perché sennò stai diventando fastidioso. E cosa voleva fare bene? Da operaio cosa voleva diventare? No, fare bene l'ispettore del lavoro. quindi aveva fatto diciamo un po' di carriera o no? No, ho preso una laurea a 50 anni con cui mi sono poi riciclato in un'azienda sanitaria, ho potuto utilizzare questo pezzo. 50 anni mica è un'età vecchia, uno a 50 anni si stabilizza nel lavoro, è quello che ha fatto lei. Sì, ma poi io ho pure dovuto fare i conti col sistema, che il sistema non è che ti fa fare tutto quello che vorresti, ecco. Sennò che sistema è? Si chiama sistema. Si chiamerebbe casa nostra, non è così. Chiamerebbe casa nostra, bravo. Esattamente. Ma perché lei cosa le sarebbe piaciuto fare? Il giustiziere? Qual era il, diciamo? No, niente, non sento che c'è poco da giustiziare qua. Vede, io ho la mia adolescenza, per arrivare a scrivere per arrivare a fare quel viaggio di cui le ho raccontato nel 71, è stata illuminata da personaggi importanti. Fighting for your soul, don't you ever doubt it. You know it's true. It won't take much to wake up the beast in you. You know when I'm drinking, all I need is a drink, and I can't take no more. Sitting in the middle, no. Sitting in the middle, no, no. Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. I campioni dello sport, le loro storie e gli autori che le hanno raccontate. Sono Dario Ricci e a luglio vi aspetto ogni domenica alle 16:30 in podcast a Sfogliando Olimpia, la biblioteca dello sport, per leggere insieme i grandi libri della storia dello sport. Naturalmente qui su Radio 24. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Capiamo di, vediamo se riusciamo a tracciarne qualcuno. Quando lo incontra? Allora, io ho incontrato personalmente Carlo Carretto. Non so se lei ha memoria, no, delle parti sue, perché ha istituito delle cose a Spello e avevo 17 anni, quindi parliamo del 69-70. E l'attrasse, il senso di altruismo? Mi attrasse quel suo libro famoso, Lettere dal deserto, in cui invitava a riflettere, eccetera, eccetera. Poi la mia adolescenza è stata ricca di figure illuminanti. Ma l'ha conosciuto? Qual è stato il seguito? È entrato nel suo cenacolo di pensiero? No, è stato un bel incontro con una persona a modo che mi ha detto, mi ha fatto capire in realtà io sono un essere umano come gli altri. Cioè, mica era un profeta, uno che ha scritto un libro. No, bravo, non era un profeta, no, ma ha detto sono un essere umano come gli altri, quindi continua a cercare le cose che hai in mente. Però la mia adolescenza, come la sua in fondo, alla fine, ha avuto personaggi, le faccio due o tre nomi, Don Lorenzo Milani, che è morto nel 67, quindi avevo 15 anni. La lettera alla professoressa è uno dei libri tuttora. Ma come l'ha conosciuto Don Milani, per esempio? Perché non l'ho conosciuto da vivo, sono andato a trovarlo a visitare la tomba con degli amici di qui alcuni anni fa. Ma quindi lei è particolarmente colpito da persone che lanciano dei messaggi di innovazione sociale. Bravo, di innovazione sociale, non dimentichiamoci che era in quegli anni finiva il Concilio Vaticano II con le grandi speranze di innovazione. Ma forse ha sbagliato, lei doveva fare il prete magari invece. No, io non dovevo fare il prete. Che ne sai, magari le veniva bene, no? No, non mi interessava. Vabbè, mica c'è niente di male. Sì, non c'è niente di male, però non mi interessava, insomma, la questione. Certamente mi hanno affascinato persone che hanno speso buona parte della vita per altri. Lo ripeto, l'altruismo e l'attenzione per l'umanità finora i caratteri che legano gli incontri della sua vita. Poi Gandhi l'ha incontrato metaforicamente. Gandhi l'ho incontrato nei libri, è morto 4 anni prima che nascessi. Luther King è morto che avevo 15 anni, nel 68. Albert Schweitzer è morto nel 65, quindi è tutta gente di cui avevo notizie che in qualche modo mi arrivava. L'incontro vero l'ha fatto solo con Carlo Carretto e basta. L'incontro vero l'ha fatto solo con quello che c'ha vicino, gli altri erano tutti lontani nel mondo. Certamente. Uno poi era già morto, quindi era già difficile. E quindi alla fine di questo suo cammino di perfezionamento, cammino adolescenziale, chiamiamolo così. No, c'è un personaggio che portai nella tesi della esame di maturità che si chiama Socrate, che è tuttora immortale. Insomma, lei però, mi scusi, mi consenta, attribuisce il senso di incontro sia all'aspetto metaforico che all'aspetto concreto. Cioè sono le persone che l'hanno colpita nella sua vita, che si è cominciato a studiare, a leggere, a vedere che hanno scritto. Sì, vabbè, poi c'è poco da fare. A un certo punto mi sono stancato di studiare, ho fatto l'operaio e ho visto la realtà umana com'è. Quindi è una scelta quasi ideologica quella è un'esperienza, di vita intensa. Lei da medico vuol fare l'operaio, non è una scelta di rimessa, No, era una scelta di necessità, perché ero stanco di avere a che fare con libri che mi avevano solo stancato, quindi avevo bisogno del mio stipendio. Cose concrete. È stato facile cominciare a fare l'operaio, senza esperienza? No, è stato soddisfacente perché ho trovato brave persone. Cioè, che tipo di operaio faceva? Cioè edile, meccanico? No, era una fabbrica di vetri, era un magazzino di carico e scarico dei... Quindi proprio manovale faceva, caricava e scaricava? Sì, caricava e scaricava. Quindi non è che aveva cercato un operaio, con una specializzazione, un lavoro di concetto, era un lavoro, di pura fatica per guadagnare, per vivere. Ma pura fatica, lavoro, la parola fatica è già pesante, comunque dovevo arrivare a uno stipendio, dovevo in qualche modo metabolizzare troppi sogni che avevo in testa. Ma lo stipendio è cosa? Per mantenere se stesso o fare un progetto di vita? intanto mantenevo me stesso, dopodiché beccai un concorso alle poste, feci l'impiegato alle poste per una decina d'anni nella provincia di Roma. Beh, quindi sarei emancipato rispetto a... Cioè... Sì, infatti è stato tutto un cammino Diciamo, fortuna. Il miglioramento della situazione lavorativa ha cambiato la sua vita, si è sposato, fidanzato, ha convissuto... No, non mi sono sposato perché ho avuto sempre diffidenza dei matrimoni, in qualche modo me ne pento, però è così. Però quindi... aveva meno esigenze anche di budget, tutto sommato, da mantenere solo se stesso, poteva anche permettersi di accontentarsi di lavori che le lasciassero tempo libero, magari, no? Ma guardi, io ho studiato in tutto sto per esempio negli anni 90, trovandomi a Roma per lavoro, ho scoperto degli amici che avevano conosciuto Rudolf Steiner. Quindi ho avuto modo di conoscere le scuole steineriane. È diventato antroposofo? Cosa è diventato? No, non sono diventato niente, semplicemente ho apprezzato la ricchezza di pensiero di queste persone. Vabbè, è diventato steineriano, diciamo. In qualche modo sì. Ma in quel campo lì cosa ha fatto? Sotto una didattica? Cosa... No, ho apprezzato il lavoro di amici che insegnano le scuole steineriane. Lei non ha insegnato in delle scuole, no? Io non sono insegnante, io ho fatto lavori anche seccanti certe volte, però... Ma applicata la vita cos'era? Aveva un particolare regime di vita? No, la vita normale di uno che cerca di comportarsi bene. Poi conobbi, ecco, questa è una bella conoscenza, gliela dico, intorno agli anni 90 un suo collega, diciamo, che si chiamava Saverio Tutino. Saverio Tutino è quello che ha fondato l'archivio diaristico nazionale a Pieve Santo Stefano. Ah, ma quella è una cosa importante. Sì, e l'ho incontrato di persona perché lo cercai e lo andai a trovare ad Anghiari dove viveva e mi ha fatto infatti gli ho pure mandato un paio di brani che mi erano usciti bene, diciamo così. Voglio dire, la mia ricerca è stata... Comunque sempre alla ricerca di persone, lei vedo, da cui abbia qualcosa da imparare, penso, no? Possibilmente sì, certo, le persone che negative le ho lasciate perdere. Poi incontrai una certa insegnante, si chiama Angela La Salabatà, che insegnava roba di psicologia spirituale a Roma, che ha scritto per esempio un bel libro che si chiama Dell'86 alla ricerca della verità, dove spiega le sue teorie sulla vita. E dove si cercava la verità, secondo questa sua nuova insegnante? La verità sta la verità c'è, però è mascherata in mille modi. Quindi diciamo una ricerca, diciamo, spirituale adesso. Una ricerca spirituale, certo, che poi devi sempre bilanciare con... Quindi la sua vita è stata la ricerca di maestri, questa è la sintesi. Sì, se vogliamo sì, è stata la ricerca di maestri... In qualche modo li ho trovati, in qualche modo poi... Sì, certo, è un bel salto da Luther King, Don Milani, alla maestra di vita spirituale, quindi penso di misteri, cose occulte... No, cose occulte, no. Se lei lo trova, è un libro... Ma come ci arriva lei alla verità? Attraverso quali tecniche? Questa sua insegnante? Ma non ci sono tecniche, ci sono conoscenze, no? Cioè, basta conoscere... Una serie di per esempio ho un amico che è stato in India, cercava anche lui la sua verità, un amico che oggi ha 80 anni e oggi vive in trovato, Italia. E che ha trovato in India? Ha trovato la sua dimensione, lui è tranquillo, si fa le sue belle preghierine, si fa... Quindi è diventato, se si è convertito, diciamo, è diventato induista, cosa è diventato? No, non è diventato induista, perché non c'è, semplicemente è uscito fuori da quelli che sono i nostri schemi mentali, che sono schemi culturali, varie religioni, eccetera. Ha trovato la sua strada, il suo senso di Dio. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Chi prega il suo amico per capire? Ha detto tante cose, ma per capire il filone. Cosa fa? Fa meditazione, yoga? Il filone è la meditazione, meditazione. Cioè medita e sente, vabbè, ha trovato un'armonia. Sì, ha trovato un'armonia, bravo. Infatti vive in un posto delizioso sopra Assisi. E lì è pieno di monasteri, di cose di tutti i tipi. Sì, è pieno di suggestioni, certamente. Voglio dire che io non ce l'ho questa, sono ancora pieno di contraddizioni e vivo dove... Diciamo, lei ancora non se la sente di scegliere la via monastica, ecco, una cosa del ma genere. Ma non sono pronto, diciamo. Però ci comincia a pensare, perché non è che a un certo punto... Sì, vabbè. Ma scusi, ma lì sono tanti, ci sono i francescani, i frati di tutti i tipi, perché non sceglie, ripeto, una strada più vicina a quello che è che le offre il territorio, no? Ma perché non la soddisfa? Perché hanno tutti i loro schemi mentali, le loro gare. E ma chi è che senza schemi mentali? L'ha trovato? La fatica è questa, la fatica è proprio questa, di riuscire a diventare liberi senza avere schemi mentali. Chi non ha schemi mentali nemmeno si fa trovare, perché non c'ha nemmeno bisogno di essere trovato se non c'ha schemi, quindi è difficile. Infatti penso che i migliori non si fanno trovare, non hanno nemmeno voglia di farsi trovare. Allora, se dovesse raccontare un episodio della sua vita, al di là della ricerca dei maestri, ne ha cercati tanti, si è mosso, mai mosso dal posto d'origine? Ha mai viaggiato? No, al massimo sono arrivato a Roma, dove ho vissuto per... Quindi per il suo tratto è stato Umbria-Roma? No, il mio tratto è stato... il mio viaggio è stato... Abruzzo, Molise, Roma e altri viaggi che ho fatto in Umbria, in Toscana, ma per... Quindi è rimasto all'Italia dicendo, ah, che vuol dire? Ma è così bella l'Italia. Il microcosmo uno poi ce l'ha dentro, non è che deve andare in giro. Quindi lei ha cercato le zone vicino alle... Andai solo una volta a Parigi, perché avevo 14-15 anni, per un viaggio premio, perché avevo avuto una bella pagella, e un viaggio pagato dal Ministero della Pubblica Istruzione, ma qui parliamo di 50 e passati. Ma sa, se uno non sente l'impulso, il desiderio di viaggiare, alla fine sta bene lo stesso, non è che mica è un obbligo. Sì, sono d'accordo. Se uno ha trovato una dimensione, non dico soddisfacente, però è così bella l'Italia, perché c'è... Sì, ma anche io faccio avanti e indietro con un treno, avanti e indietro per le stesse strade alla fine, non è che vado poi da nessuna parte. Sì, anche lei torna a casa sua alla no, sera. No, sì, certo, normalmente. Sì. Cioè il viaggio è attraverso le persone che incontro, che conosco, con cui parlo. Sì, bisogna avere fortuna a trovare dei bravi compagni di viaggio, diciamo così. Ecco, lei ha avuto buoni amici, persone che ha conosciuto, che, a parte questi qua che sono tutte persone che sono passate alla storia, qualcuno che non passa alla storia. Li ho avuti buoni amici, purtroppo essendo più grandi di me se ne sono già andati. E se lei li sceglie più vecchi, chiaro. No, non li scegliamo noi, è la vita che ce li fa. Vabbè, cerca sempre saggezza, il saggio se ne va prima, è logico. Cerchi sempre saggezza, bravo. E poi posso anche essere fortunato a trovare un cinquantenne saggio, ma non l'ho ancora trovato. Sì, ma lei, ecco, perché lo cerca? Cosa vuole che le indichi? Quale via? Cioè, le deve aprire qualche porta segreta, indicargli una strada? Ma che non esistono porte segrete, esistono solo chiacchierate come questa, per esempio. Questa è una chiacchierata... intelligente, diciamo così, che cerca di ma lei riesce a fare chiacchierate intelligenti? È molto difficile. E quindi l'alternativa qual è? Se ne sta da solo? L'alternativa è che si soffre un po' la solitudine, certo, perché gli amici intelligenti sono pochi. Ma non ha mai pensato a trovarsi una persona che l'accompagnasse nella vita, un amore? Sì, come non ci ho pensato. Ma non c'è mai riuscito? Bravo. Cioè, quant'è il tempo massimo che si è dedicato all'affetto di una persona, non amico? Un tempo massimo, quanto ha resistito? Una settimana? Tre mesi in tutta la vita? No, tre mesi più episodi fugaci. No, diciamo, il massimo in tutta la vita una persona con cui ha avuto una relazione tre mesi. È un sintomo, vuol dire che lei non è un sintomo, non è adatto, inutile. Se si fosse sposato avrebbe fatto una persona infelice, secondo me. È bravo, E che uno se ne accorge dopo, capito? Che non è proprio se ne accorge dopo, me si è accorto prima. È stato meglio. Ma qualcuno l'è stato dietro, dicendo ma dai, stiamo insieme, dividiamo la casa, Sì, ci sono queste cose, però ho sempre nicchiato, come si dice, insomma. È un solitario lei allora di natura proprio? Ma sì, mettiamola così, alla fine meglio soli che male accompagnati. Cosa si lascia dietro le spalle? Che ha costruito nella vita? Cioè lascerà un segno? Sai, uno di solito dice mi sono inventato una cosa. Questa è una bella domanda e me la pongo ogni giorno. Però è la stessa domanda che si pone chi ha messo al mondo figli e magari li ha buttati in mezzo alla... No, vabbè, anche se non li butta in mezzo alla strada, a un certo punto, sai, mi creda, uno se lo chiede comunque, cioè, ma chi me l'ha fatto sì, fare? Vabbè, però... Cioè, mica diciamo siamo santi, eh? Non ho avuto... Non ha avuto quel rimpianto, diciamo. No, non ce l'ho quel rimpianto, no. Quindi però mi rendo conto, la domanda che le ho fatto all'inizio, era una domanda alla luce di quello che mi ha detto dopo, senza senso. Cosa aspetta? Lei anche quando lavorava, alla fine, non è che aveva uno scopo preciso... se non quello di cercare una guida, un maestro, qualcuno che la stimolasse. Ragione di più sarà adesso che non c'è nemmeno la gabbia del lavoro che tutto sommato ti condiziona. Sì, allora. Però torniamo al punto. Lei ha delle soluzioni? Ma io mica faccio il maestro, io non sono maestro di vita. Nessuno è maestro. Non ce l'ho manco per me. No, tanta gente dice come, c'ho le soluzioni, vieni, ti insegno a meditare, ti do... No, tutte stupidaggini. Poi ognuno si trova le sue risposte, io non ce l'ho. Se arriva, se no... Un numero importante delle persone che mi ha citato sono persone che comunque hanno lasciato cose scritte, hanno dato direttive, condizioni di vita. Steiner è un metodo, mica è uno scherzo, ti dice quello che devi fare da quando mangi a quando ti pensi, a quando ti muovi con gli altri. Non è che non ha detto fate qualcosa. Ho capito, il problema è trovare i compagni di viaggio adatti a camminare insieme, ecco. Se uno non ce l'ha, si arrangia come può. Io le aggiro così, l'importante è sapersi adattare ai compagni di viaggio. Quelli adatti non ci sono mai in assoluto, non si adatta alla fine, sono margini di compromesso. Lei compromessi non ha mai voluto fare compromessi. Può darsi che sia così, certo, è faticoso perché è molto pesante, ecco. Può anche darsi che non li ho trovati i modi per arrivare al compromesso, perché voglio dire, io vivo in una cittadina della costa adriatica adesso. Può darsi che a Roma, se fosse rimasta, avrei trovato più interlocutori. Ma aveva una vita sociale quando stava a Roma, che lavorava? Come no, a voglia. Entravo e uscivo continuamente, ma avevo anche 20 anni di meno, insomma. Quindi. Comunque la vita se l'è goduta, non è che è proprio stato tutta la vita... E chi l'ha detto? No, immagina, che ne so, come la sento, sembra che non è stata una vita triste. Se fa un bilancio non è stata una vita triste. Ma assolutamente non è stata una vita ricca di incontri, di belle persone, di belle esperienze. E di questo non gliene rimane nessuno? Nessuna da sentire, da vedere, da... Sì, al telefono ogni tanto li chiamo, però stanno fuori, stanno lontano. Ma lontano quanto? Cioè, oltre l'Abruzzo e il Lazio e l'Umbria? Abbiamo detto mica poco, insomma. Vabbè, può arrivare, che ne so, Lombardia, Liguria, in Emilia-Romagna ci può arrivare, oppure sono off limits? Come no, specie mo che hanno ripreso a viaggiare i treni, certo che ci possa arrivare. Ma c'è un blocco, c'è qualcosa che la blocca, che la ferma? No, è che in realtà i maestri migliori, quelli che ho in assoluto mi hanno confortato, guidato, eccetera, se ne sono andati, capisce? Cioè, fisicamente sono morti. Quando uno ha 65 anni capita che le persone 68, conosce... 68. Se le lascia per strada, questo è fatale. E quindi bisogna vivere di ciò che hanno lasciato di buono e cercare di non fare, diciamo, troppi errori, ecco. E gli errori suoi quali sono stati? C'è un errore di cui si pente? Grosso. Sì, non essermi sposato a 40 anni, sì. Però c'aveva l'occasione col tempo. Come no, e ci mancherebbe. Chi era? Però, una fidanzata, chi era? Sì, erano più di una, però in quel momento ero così amante della mia libertà che... Ma c'è stata una donna che ha voluto bene tanto ad avere questa tentazione? Più di una. E cos'è che l'ha bloccato alla fine? Mi ha bloccato l'idea di di dover dipendere da altri. Ecco. Beh, dico, 3 mesi non è proprio un test, stare con una persona 3 mesi. No, no, non mi riferisco a quell'episodio, ad altri. Ha mai convissuto, mai stato con una donna dentro casa più di un giorno, due, così? No, no, non proprio. Vabbè, allora vedi, chiaro, lei non ci ha voluto manco provare, non è che, guardi, figurati, sfonda no, porte aperte, ma non ci ha manco provato, non ci ha avuto una delusione. Ma non ci ho manco provato perché, no, vabbè, ho avuto più di una delusione, però era tale la mia condizione di precarietà quando ero dipendente di un ente pubblico che non... Ma perché precarietà? Aveva un lavoro, scusi, c'è gente... Sì, d'accordo, però non... Cioè, non aver lavoro mica impedisce di stabilire relazioni, sennò sarebbero tutti soli. Anzi, la relazione ti aiuta e ti stimola. Sì, sì, ma infatti, l'ho detto, il rimpianto è che non ci ho provato, non ho avuto sto coraggio, quindi tutto qua, e poi gli sbagli si pagano e ciccio, andiamo avanti. Ma uno sbaglia una volta, due, tre, quattro, poi... lo so, ma non posso sbagliare adesso a questa età, quindi... Vedremo. Ma quale che rischia adesso? Cosa rischia? Faccia capire. Ah, niente, se dico ciao ciao, arrivederci. C'è qualcuno che adesso le sta dietro? Sì, si può sempre trovare, ma adesso non ho più voglia, insomma. Lei passa la voglia, ci credo. Cioè, non c'ha voglia nemmeno nell'età in cui queste cose fanno parte del quotidiano. Figuriamoci adesso che uno appende il Winchester al chiodo, è chiaro. Winchester, poi ero anche antimilitarista, al massimo avrei appeso il cappello. Il cappello, sì, il cappello lo appendeva chi si. Ma si è sentito sotto rischio di accasamento? Qualcuno che vedeva che proprio deciso? No, ho avuto brutti esempi vicino a me di matrimoni pesanti, molto pesanti. Guarda che i matrimoni sono tutti pesanti, se li guarda bene. Da fuori sembra tutte rose e fiori, ma... Sì, vabbè, ma io non... Da dentro non conosco un matrimonio non pesante. Mi è bastato il dolore degli altri, mettiamolo... Non ha avuto esempi anche di persone che stavano bene? Non gli è capitato di incrociarle? Diciamo di no. Se no l'avrei probabilmente alla fine è un pessimismo plumbeo quello che mi sta raccontando, però. No, forse il realismo non è pessimismo, è un disincanto, sì, è un disincanto totale sul fatto che la vita non sia soltanto un'illusione, un sogno, un passato. No, ma non è disincanto. Io ho dei nipoti felicemente sposati, felicemente accompagnati, quindi è solo una condizione mia personale. What is it about them? I must be missing something. They just keep doing nothing. Too intoxicated to be scared. Better off without them. They're nothing but unstable. Bring ashtrays to the table, and that's about the only thing they share. I'm in the secondhand smoke, still just drinking canned coke. I don't need a zanny to feel better. Waking up at sundown, they're late to every party. Nobody's ever sorry. Too inebriated now to dance. Morning as they come down, their pretty heads are hurting. They're awfully bad at learning. Make the same mistakes. Blame circumstance. I'm in the secondhand smoke. Still just drinking canned coke. I don't need a zanny to feel better. Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Buongiorno, servito? Sicuro. Per un rifornimento che ti dà sicurezza, fermati da Kuwait. Se sei cliente Star Kuwait, ogni 25 litri serviti di carburante hai in omaggio un gel mani igienizzante e la possibilità di attivare una polizza assicurativa che indennizza in caso di Covid. Offerta soggetta a restrizioni, valida fino al 31 luglio salvo proroghe. Verifica le condizioni prima di aderire all'offerta. Info e regolamento su kuwait.it o sull'app Club Kuwait. Il treno va. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Beh, almeno nel ruolo dello zio si sente realizzato, cioè nipoti... Sono contentissimo di fare lo zio, certo. Sarà lo zio scapolo che alla fine i nipoti vanno sempre a trovare. Bravo. A cui chiedono aiuto, dacci una mano, queste cose qua. Ma no, sono così capaci e bravi che non nemmeno lo fanno, però voglio dire, sotto i paragoni... Lei che farà stasera? Finita sta chiacchierata, io scendo dal treno e me ne vado, lei che fa? Per capire una giornata media... Probabilmente, dovendo cambiare casa, andrò a parlare con un geometra per vedere alcune cose. Però vede, scusa, non è che stavo... Cioè, non è che ho l'immagine del povero pensionato che la sera smette davanti alla televisione e si abbiocca. E mica ho detto che... Lei fa una bella vita. Comunque cambia casa, prende una casa bella, la costruisce, l'arreda... No, non la costruisce perché costa troppo, però si trovano usate e quindi... Le case di sotto, le più belle sono quelle già usate, perché hanno una storia dietro, è chiaro. Si prende una bella casa e cambia casa, quindi arreda, trasloca. Ma la casa la fa per starci da solo? Non ho idea di quello che farò da qui a un mese, quindi ho imparato a vivere giorno per giorno. Però guarda che è un grande lusso poter vivere giorno per giorno, non è che è il lusso più da buon gustaio, dici, io mi posso permettere di vivere giorno per giorno. Io mi consento questo lusso, per me. E quindi ha fatti soldi in una vita di lavoro? No, non ho fatti soldi nella vita. Però è sereno, tranquillo, Sto tranquillo che sono arrivato a questa minima pensione con cui affronto tranquillo il domani, nel senso che se domani mi arriva il coccolone e muoio, chi se ne frega. Vabbè, quello succede anche a... Non lascio nessuno in mezzo alla strada. A un super mega miliardario, anche lui si... No, ma qual è il super mega miliardario? Lei una famiglia non l'ha fatta, sai che gliene importa al mondo? Basta che lascia i soldi per il funerale, ha fatto, ha risolto. E infatti quelli stanno già pronti. Ha già messi da parte? No, non è possibile. Sì, quelli li ho già messi da parte. Come funziona? Chi dà? Io va alla pompe funebri, lascia i soldi, se muoio ecco i soldi. No, c'è sempre qualche parente a cui puoi dire, guarda, se mi succede qualcosa... Ma lei si fida, scusa, i parenti i soldi se li tiene, cioè ci pensa il comune? Ma no, non ci pensa il comune. Ma sei comprato, pochi parenti. Sei comprato parenti. Anche sì, il loco? Non l'ho comprato, l'ho preso da un antenato, quindi sto facendo la pratica per averne diritto, diciamo così. E poi non è un locale, è una tomba a terra. È una bella tomba, se è andata a vedere, se la vede, se l'organizza. Certo, che non voglio nessuno sulla testa, certo che è una bella tomba. Se lo ristruttura, come funziona? No, non si ristruttura, è già fatto, nel senso che... Ma la lapide la deve preparare da prima, però, scusi. La lapide già sta messa già lì. C'è il nome sopra. No, il nome non... E basta non mettere la data di morte, può scrivere tutto quello che vuole, tanto già da adesso, no? E che me ne importa, ma quando sarà posso anche non scriverci niente, qualcuno ci penserà. Se non gliene importava niente, ma che mi importa della tomba? Se la beveva la tomba e poi tanto... No, cacchio, dopo essere stata una vita in affitti di tutti i tipi, almeno da morto voglio la tomba singola. Cioè, almeno la casa la vuole, capito? Almeno da morto voglio una tomba senza nessuno sulla testa. Ma tanto mio, ci sta per sempre, dopo 20 anni la levano e via. No. No, dura di più da ste parti. Quanto? Poi dopo che mi levano, chi se ne frega, non ci siamo più, quindi. Allora dovrebbe manco fregargli l'aver la tomba, scusi, e lui dice che mi importa, butta nella fossa comune, che importa. No, cacchio, la dignità di una morte con la tomba ci vuole. No, questo mi interessa, vuol dire che uno quando è pensionato comincia a pensare a organizzarsi il funerale, questa è una cosa che non ci avevo pensato. Ma guardi, se torniamo a Steiner dice che l'uomo saggio, che non sono io, ripeto, passati 50 anni, dopo essere cresciuto, dopo aver vissuto l'età matura, comincia a pensare alla morte e l'uomo saggio pensa a come morire bene. Io non lo so se morirò bene, però è bene pensarci. Beh, sì, Dio, morire bene mica lo so che voglia dire rispetto. Ma morire tranquilli, senza tanti, tanti... Tranquilli, come fai a morire tranquilli? Senza debitori che ti bussano alla porta, forse. Ma io vorrei avere miliardi di debitori quando muoio, anzi, così mi sono goduti i soldi e non devo ridarli, muoio tranquillo, poi peggio per loro. No, non lo so, io ragiono diversamente. No, sbaglio. No, non ho creditori, quindi non... sto tranquillo che nessuno mi viene a rompere l'anima per avere anche un euro, ecco. Beh, tanto quando è morto che gli può dare? Ma, no, lascerà, ma c'ha qualcosa da lasciare ai parenti? Ce l'ha qualche piccolo... Una casettina. Cioè, via via, insisti, per fuori il gruzzoletto. Mica è che la casettina chi la lascia, nipoti? Ma che mi frega, qualcuno la prenderà. No, devi dirlo prima, poi litigano, si scannano, quello è brutto. No, veramente. Francamente, se litigano sono stupidi loro, cioè, si fa tutto secondo le leggi del codice civile. Ma le leggi, lei non c'ha eredi diretti, perché se non c'ha figli. E che vuol dire? C'è il codice civile, si applicherà il codice. Ma pensi ai nipoti, i fratelli, le nuore, quanta gente litiga dopo? Decida chi la dai, via. Sono affari loro. Ma non è meglio decidere chi darla, così sta tranquillo. Non me ne può fregare di meno. Allora si scanneranno come animali poi. È peggio per loro, vuol dire che non hanno capito quello che è. Mica se la posso dividere, funziona sempre così, anche fra fratelli, figurici fra nipoti. Nicoletti, ma io non mi voglio più a sto pensiero. No, gliel'ho messo io adesso, altro per farle vedere. No, non me ne importa un fico sex, sinceramente. Vabbè, così posso dire una cosa, comunque, in anni di ricerca di maestri, qualcosa ho ottenuto una sorta di senso di superiore indifferenza verso gli affanni degli altri, una stato di atarassia, si direbbe che... Sì, può darsi che sia così, ma d'altronde è sbagliato. No, è quello che vorrei avere anch'io, sì, vorrei non avere più preoccupazioni per nessuno, ma angoscio sempre per gli altri. Bisogna arrivarci piano piano. Vabbè, in bocca al lupo. Non so se è la cosa migliore da fare, però questo... Può essere che magari questo viaggettino, questa volta invece di trovare maestri, è stato maestro, ma mi ha dato qualche lezione di vita. Adesso non lo so, non ho saputo. Senta, dove si cerca? Esiste una sorta di bollettino, come sono le agenzie immobiliari, dove c'è scritto delle tombe, i loculi, no? No, guardi, allora... No, per sapere la strada migliore, non c'è un'agenzia immobiliare, no? No, guardi, la strada migliore è trovare i cimiteri piccoli di paese. E lì ci sono tombe a buon mercato, non le vuole nessuno. Ci sono tombe deliziose, basse, coi fiorellini, che non hanno nulla quindi uno si fa un giretto in campagna. Dell'anonimato. Sì. E si trovano a buon prezzo rispetto a una tomba, diciamo, in una grande città. Che poi c'è... Ma penso di sì, sicuramente. Vabbè, faremo questo investimento. Ci sono delle tombe deliziose, se lei è umbro, se prende le stradine. Tra Sisi, Spello, eccetera. Collepino, secondo me c'è un bel cimitero. Collepino, bravo. È un paesino, salendo da Spello verso sul Subasio, c'è questo paese delizioso, Collepino, andiamo a vedere il cimitero. Oppure se fa Contrada Paradiso. Poi ha detto il nome stesso, è già una strada aperta quella, figurati. È già una strada bellissima che finisce a San Pestro, partendo da Ponte Grande di Assisi. Quindi cercare una tomba a buon prezzo in Contrada Paradiso. Dei piccoli cimiteri deliziosi. Piccoli, più avranno 200-300 tombe in tutto, qualcuna è abbandonata, ma magari non c'è più. Però qualcuno bisogna fare un contratto, perché mica uno può andare in una tomba. Sì, vabbè, ma basta chiedere a quelli del posto e le sanno dire se va bene. Grazie della preziosissima indicazione immobiliare. Le auguro buon viaggio e ci salutiamo, perché è imbarazzante, non so veramente dove mettere le mani, quindi la saluto, buon viaggio, a presto. Comunque, grazie. L'argomento è quando vuole consulenti mi incazzo di trovarmi. No, non mancherò, grazie infinite, buon viaggio. Buone cose, ciao, buon viaggio. Ciao. Comes from above except the rain. I see it's come to me. I know devil took my babe away. She never see the light of day. Oh, it's not like she was kicking much. I seen her smile as he rushed. Fire in the sacred ground I find the beast. Get a low upon her knees, something you can't leave alone. Try crunching down upon this bone, demon trail beneath the crust, burn you down, ashes to dust. Children stomp and play on your remains. Your head is on a pike within their games. Looking at me just the same, you know. Time turn your back around, so just forget my name. Si ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo iltrenova@radio24.it. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.